posso mai inventare per farla innamorare questa sera di me. Che il tempo adesso stringe, lei è sempre molto più bella di come la si dipinge. Con la sua foto in mano assolderò un paesino tutto intero, via i lampioni, solo lumi di candela. Baristi fate solo cappuccini a forma di cuore, perché lei ama l'amore. Nei suoi occhi ci vedo il mare, e zattere con falle troppo grandi, buone solo per naufragare. E nei suoi occhi ci vedo il cielo, ed io che non riesco a levarmi dal mio ruolo di uomo brutto. Lampioni e di luci e di volti amici. Un gattino di seta ci insegue dovunque, un clown inventerà un gioco per farci baciare. Applaudite signori, quest'amore che nasce, pregate che la banalità non lo sfiori. Inneggiate all'amore, quello giovane e vero, egoistico e puro, come un soffio di luce. Che nei suoi occhi ci vedo il mare, e zattere con falle troppo grandi, buone solo per naufragare. E nei suoi occhi ci vedo il cielo, ed io che non riesco a levarmi dal mio ruolo di uomo.